America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Former New York City Mayor Michael Bloomberg announced Monday he'll not enter the 2016 presidential race. Ecco, avete sentito da questo annuncio di una rete televisiva americana che Michael Bloomberg ha deciso di non correre per la Casa Bianca del 2016. La notizia di ieri l'ha data lui stesso e l'ha data usando la sua agenzia di stampa, pubblicando un editoriale dal titolo "Un rischio che non prenderò". Devo dire titolo molto interessante, perché il rischio può avere varie interpretazioni. Un rischio personale, naturalmente, quello di esporsi, oltre che a spendere $1 miliardo. Aveva detto che avrebbe messo da parte questa cifra del suo vasto patrimonio di varie decine di miliardi di dollari per correre per la Casa Bianca. Ma c'era anche un rischio politico. Il rischio politico era quello di aiutare Donald Trump, e lo ha detto chiaramente: ho deciso di non correre perché avrei tolto voti e probabilmente a Hillary Clinton ed avrei aiutato Donald Trump, e questo è un rischio che non si può prendere. È un rischio calcolato, perché abbiamo saputo che Bloomberg aveva studiato con grande precisione questa sua corsa elettorale, l'aveva studiata in grande dettaglio, aveva calcolato che c'erano almeno 22 stati in cui avrebbe potuto vincere. Di questi 22 stati, forse 4-5 li avrebbe portati a casa, forse avrebbe avuto un numero sufficiente di delegati per impedire che un candidato dell'estrema destra, per esempio Trump o per esempio Cruz da una parte, o dell'estrema sinistra, cioè Bernie Sanders nel caso dovesse vincere contro Hillary Clinton, potesse prevalere. Però di fatto Bloomberg ci dà vari messaggi. Numero uno, non vincerà Bernie Sanders, vincerà Hillary Clinton, di questo ormai ne siamo tutti convinti, sarà lei la candidata per la nomination del Partito Democratico. Numero due, se avesse corso avrebbe appunto aiutato Trump, e dunque la sua voce si unisce a questo punto dal centro al coro generale. Mi colpisce davvero questo coro generale contro Donald Trump. Abbiamo sentito qualche giorno fa Mitt Romney è stato il candidato per le elezioni della Casa Bianca 2012, candidato del Partito Repubblicano, naturalmente ha attaccato pubblicamente Trump, e credo che non l'abbia in effetti aiutato, perché Trump non ha fatto benissimo nell'ultima ondata elettorale. Adesso arriva questo attacco dal centro, c'è l'attacco naturalmente giustificato dalla sinistra, cioè da Hillary Clinton. Però ecco, mi domando, ma quanto questi attacchi alla fine danneggeranno o aiuteranno Trump? L'America in fondo è il paese che ama l'idea di questo eroe solitario che deve combattere contro tutti e che forse in realtà può farcela e può dare davvero qualcosa. Ecco, io devo dire, non credo che questo sia il caso. Gli americani, soprattutto quando ci si troverà alle elezioni vere e proprie, cioè superate le convention, gli americani ascolteranno la voce della ragione di personaggi credibili, di personaggi seri come Bloomberg, come Mitt Romney, quindi non coinvolti direttamente nella corsa elettorale, che così cercano di avvertire sul pericolo implicito nel voto di un personaggio inaffidabile, diciamo, o considerato inaffidabile, come Donald Trump. Dunque si chiude un'altra pagina in questa campagna elettorale americana densa di sorprese, e a questo punto siamo tutti proiettati verso l'appuntamento del 15 marzo che, devo dire, deciderà se Marco Rubio resterà in corsa o meno per queste elezioni americane. Well, now we have some breaking news just into CNN from Somalia. The US says a drone strike has killed 150 al-Shabaab Islamic militants. Ecco, altra notizia importante di ieri: c'è stato un attacco americano che ha ucciso 150 combattenti del Shabaab in Somalia. L'attacco è avvenuto a Camp Raso, un centro di addestramento di questi terroristi islamici, a circa 200 chilometri a nord di Mogadiscio. L'attacco è stato portato durante una cerimonia di fine corso di un periodo di addestramento. Questi 150 combattenti erano stati addestrati, dicono le fonti americane, per attaccare forze americane e forze dell'Unione Africana, soprattutto delle forze kenyote. Ecco, Mi ricordo di una chiacchierata che feci non tanto tempo fa con Nkosazana Zuma, che è il presidente dell'Unione Africana, anzi la presidente dell'Unione Africana, mi diceva come si percepiva questo pericolo di una ricostituzione delle forze del Shabab, che si erano indebolite molto, ma che stavano cercando di riconquistare il terreno perduto con degli obiettivi molto precisi. Uno, di spingersi a sud e di conquistare territorio kenyota, quindi di portare un attacco frontale, non soltanto attacchi terroristici tipo quello del 2013, lo ricorderete, quell'attacco devastante in un centro acquisti, ma anche di spostarsi verso nord e nord-ovest e dunque verso la Libia. Un'operazione questa molto importante che si unisce anche a una decisione da parte della Casa Bianca potrebbe pubblicare, almeno questo ci ha detto Lisa Monaco ieri a un discorso al Council on Foreign Relations, potrebbe pubblicare un rapporto sui morti causati dagli attacchi americani con i droni per cercare di avere un maggiore sostegno dell'opinione pubblica americana. Ecco, la politica degli attacchi dei droni è piuttosto contestata perché si dice che per ogni terrorista ucciso c'è il rischio di uccidere anche dei civili. Questo purtroppo è successo in varie occasioni, non dovrebbe essere successo in questo attacco condotto in Somalia, però abbiamo alcuni dati, perché gli attacchi coi droni avvengono in Pakistan, nello Yemen, in Libia, in Somalia, in Iraq, in Afghanistan, in Siria. Avremo questi dati forse già nelle prossime settimane. Abbiamo qualche anticipazione, per esempio nel febbraio del 2013 il senatore Lindsey Graham, repubblicano della Carolina del Sud, tra l'altro uno dei candidati iniziali in questa corsa repubblicana per la Casa Bianca del 2016, aveva anticipato che i droni avevano ucciso complessivamente 4.700 persone. E una delle denunce più gravi arrivò dal gruppo indipendente Reprieve nel 2014. La denuncia fu che gli americani, per uccidere, per colpire 41 terroristi riconosciuti nello Yemen, avrebbero ammazzato 1.147 persone sia in Pakistan che nello Yemen. Ecco, questa notizia per noi di particolare interesse comunque perché va inserita nel contesto della crisi libica, una crisi nella quale il nostro paese, come sappiamo, dovrà giocare in un modo o nell'altro un ruolo importante. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!